i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Informazione tossica. Il pericolo viene da ciò che crediamo vero e invece non lo è. Di Massimo Chiais. Il conflitto russo-ucraino, quell'operazione militare speciale che cambia nel nome ma non nella sostanza gli avvenimenti che dal 24 febbraio hanno riportato il mondo intero alle tensioni della guerra fredda nelle sue fasi più acute, rientra perfettamente nelle dinamiche dei conflitti ibridi definiti, forse in modo non del tutto adeguato, dalla cosiddetta dottrina Gerasimov. Una delle loro principali caratteristiche, accanto alle metodologie classiche del warfare, è l'utilizzo dell'informazione manipolata come strumento bellico, fondamentale per produrre al contempo consenso e disinformazione. In altre parole, l'uso funzionale della disinformazione, della propaganda grigia e nera, come vere e proprie armi di guerra. Obiettivo di questa informazione intossicata è quello di trasformare la realtà in qualcosa di irreale, ma, più ancora, di rendere reale ciò che reale non è attraverso azioni che, citando Noam Chomsky, verrebbero a configurarsi come operazioni di ingegneria storica, volte a trasferire narrazioni della realtà destinate, nell'ottica di chi le diffonde, a essere tramandate e accettate come verità inconfutabili. Ecco allora ricomparire strategie comunicative già note da sempre alla base di qualsiasi operazione propagandistica e di guerra psicologica, la dicotomia noi-loro. La creazione di un nemico infido e infame, mostruoso nella sua atrocità, l'enfasi posta su presunte atrocità in linea con narrazioni della più classica propaganda atroce, la riproposizione di queste tematiche verso le categorie ritenute più deboli, innanzitutto bambini e donne, la comparsa di miti e simboli capaci di consolidare le pulsioni identitarie di un popolo nel tentativo, spesso riuscito, di espandersi a un target esterno addirittura globalizzato. In questo conflitto, per la prima volta, i protagonisti dei flussi informativi non sono unicamente i media classici. Era già accaduto, per intenderci, nel corso dell'operazione Desert Storm, considerato come il primo conflitto mediatico, caso di studio sul rapporto tra politica, guerra e informazione. Ma quei media che fino a pochi anni fa costituivano sostanzialmente l'unica fonte, oggi sono ormai superati dai social network, i cosiddetti new media, che se ne servono per trasformarli in potentissimi amplificatori dei flussi comunicativi online, per arrivare ad una copertura totale. Se è vero che le televisioni, le radio, i giornali veicolano notizie ai grandi numeri, è altrettanto vero che sono i social a trasferire un volume di informazioni senza limiti in tempo reale a un'utenza sterminata, veramente globale, e tra gli altri proprio al sistema mediatico più classico. Questo, a sua volta, va a coprire anche le fasce di utenti non necessariamente coinvolti dai new media. Questa straordinaria sinergia di trasmettitori ha quindi il potere di rendere qualsiasi fatto, reale o fittizio, una notizia destinata a diventare virale nell'arco di poche ore. Ma c'è di più. Questi canali, che pure si inseriscono nel mare magno dell'informazione in rete rendendosi disponibili a chiunque, tendono a essere selettivi nel loro attrarre e fidelizzare un'utenza già predisposta. Diventano autoreferenziali rispetto al sistema di credenze e di frames che il ricevente sarà sempre più portato a percepire come condivisi, dunque dotati di senso e capaci di certificare come vero e unico il proprio sistema valoriale e di lettura della realtà. Perché se la propria percezione della realtà è condivisa e avvalorata da un'informazione che azzera ogni dissonanza cognitiva, diventa inutile e sgradevole qualsiasi altra voce in disaccordo con la propria lettura e interpretazione dei fatti. Non si tratta esclusivamente della scelta del medium, ma di una vera e propria selezione di quei canali che meglio di altri definiscono una appartenenza e certificano le proprie scelte. Ecco allora che Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, eccetera, nella loro offerta apparentemente generalista, sono in grado di offrire scelte mirate e di enorme impatto nella creazione di una coscienza collettiva, laddove i canali vengano gestiti da soggetti politici, organizzazioni e strutture capaci di veicolare messaggi in linea con le aspettative del target sul quale si vuole agire. In buona sostanza, è l'utente che cerca il canale allineato alle sue opinioni, ed è poi il canale a validare il sistema di credenze, grazie all'uso di un linguaggio e di stereotipi condivisi. Lo studio di qualsiasi gruppo dal forte carattere settario e identitario, come quelli religiosi, il mondo LGBTQ+, QAnon o la sterminata galassia complottista, rende evidenti tanto questi percorsi quanto le strategie di comunicazione a essi sottese. A poco valgono censure o la chiusura di questi media, destinati a rigenerarsi in tempo zero e con insignificanti restyling, senza perdere minimamente il proprio seguito. Se questo non è stato il caso dell'emittente televisiva russa Today, canale classico finanziato dal Cremlino, ben altra sorte ha avuto l'agenzia di stampa Sputnik, che, non appena chiusa, è ricomparsa su Telegram. Sottoposta anche qui a reiterate chiusure, è oggi operativa nel suo trasferimento di informazioni, slogan, narrazioni in totale controtendenza rispetto alle fonti informative occidentali, proponendo link a pagine amiche e a nuovi gruppi di discussione. Non differenti, infine, le possibilità veramente infinite connesse alle operazioni di informazione e disinformazione contro informazione sul dark web, non luogo dove anche solo pensare a una forma di censura o limitazione assume un significato semplicemente ridicolo, e dove l'unica forma di contrasto diventa quella di operare nell'ambito della classica propaganda nera o grigia, inserendo contenuti buoni solo a creare effetti polverone, cercare di ridurre la credibilità delle informazioni di parte avversa o costruire finte catene percettive e cognitive per destabilizzare credenze acquisite. Di fronte a un tale livello potenziale di intossicazione dell'informazione, da cui il termine Infox, unione di information e intox, suona sempre più attuale il celebre aforisma di Mark Twain. Il pericolo non viene da ciò che non conosciamo, ma da ciò che crediamo vero e invece non lo è. Ciò di cui parla Mark Twain, riferito al nostro quotidiano, sono i programmi di manipolazione dell'immagine e della voce. È il deepfake, basato su algoritmi capaci di creare immagini e suoni o, ancor di più, di far dire e fare a soggetti reali ciò che non hanno mai né detto né fatto. In modo più o meno artigianale è quello che succede fin dall'inizio del conflitto russo-ucraino. L'esempio forse più clamoroso è quello del proclama televisivo del presidente Zelensky, che invitava il suo popolo ad abbandonare le armi e ad accettare la vittoria russa. Trasmesso il 16 marzo 2022, a nemmeno un mese dall'inizio del conflitto, il video è comparso sul canale televisivo Ucraina 24 grazie a un'azione di pirataggio informatico, rimbalzando poi su YouTube, Facebook, Telegram e sul social russo VKontakte. Ma non di meno, l'aforisma di Mark Twain può essere riferito anche a quella nuova veste della comunicazione per immagini che, sulla strada già tracciata dalla cosiddetta infotainment, si potrebbe oggi definire come Netflix Information, summa e compendio dell'informazione spettacolo di massa. Sono ancora, per lo più, i social a farsene portavoce per poi, come già detto, diventare ripetitori e fornitori dei media classici. L'alta definizione dell'immagine, in tutto identica a quella delle serie e dei film prodotte da Netflix, sovrappone immagini di orrore, morte e distruzione, nelle quali diventa impossibile scindere la verità del campo di battaglia dalla finzione di uno studio cinematografico. Lontanissimi tempi delle manipolazioni artigianali delle immagini, quelle proposte oggi, sulla base del gusto estetico del target finale, non sono facili da distinguere. Se a questo si aggiunge il valore interpretativo dei commenti o delle didascalie, volti a guidare nella percezione, interpretazione e giudizio immagini che, diversamente, sarebbero neutre quando non addirittura contraddittorie, ben si comprende quanto, nell'universo mediatico presente, il sottilissimo limite tra verità e menzogna ben si coniughi con qualsiasi attività disinformativa a ogni livello. In questo contesto, se i grandi media si fanno promotori di comunicazioni manipolate e indirizzate seguendo l'orientamento politico di un mittente sostanzialmente riconoscibile, i social e i new media rappresentano un vero e proprio far west della comunicazione. È il regno di una intossicazione tanto globale quanto strisciante, capace di colpire nell'arco di pochissimi istanti, con spese minime e artifici non necessariamente elaborati, un target già orientato, producendo e consolidando stereotipi e frames, avvalorando ipotesi di complotto e generando ideologie antagoniste. Massimo Chiais, 1961. È laureato in lettere, in scienze strategiche e PhD in studi strategici, disciplina che ha insegnato presso la Facoltà di Scienze Politiche di Perugia. Giornalista e docente, ha svolto un'intensa attività seminariale e collaborato, tra gli altri, con l'Università di Torino e con riviste di settore interessandosi della struttura, dei linguaggi e dell'utilizzo della disinformazione e della propaganda. È autore di numerosi saggi sull'argomento, tra i quali Menzogna e propaganda, armi di disinformazione di massa, Lupetti. Propaganda, disinformazione e manipolazione dell'informazione, Aracne. La propaganda nella storia, strategie di potere dall'antichità ai nostri giorni, Lupetti. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.